Diciamo che si concentra soprattutto su quattro punti. Chiaramente si parte dalla richiesta dell'abolizione dei decreti Salvini e chiede innanzitutto di reintrodurre il permesso di soggiorno per motivi umanitari e anche di introdurre il diritto all'iscrizione alla residenza anagrafica. Come sappiamo, infatti, uno dei dispositivi più discriminatori che contiene il decreto è proprio legato al fatto di aver annacquato di molto il diritto d'asilo per i migranti. Quindi diciamo questo è il primo punto. Il secondo punto, che per noi è molto importante, è quello della riportare al centro dell'attenzione il sistema di accoglienza integrata e diffusa gestito dai comuni, quello che noi conosciamo come SPRAR, che purtroppo il decreto Salvini smantella quasi del tutto. Per noi questo è un punto molto importante, lo è anche per la città di Bologna, che come sappiamo negli ultimi anni ha puntato molto sul sistema dello SPRAR e che quindi sarà, come dire, una delle città che probabilmente sarà più penalizzata. Il 31 dicembre i progetti SPRAR gestiti dal Comune di Bologna scadranno e, secondo quanto prevede il decreto Salvini, i richiedenti asilo, i titolari quindi anche di protezione umanitaria, ma anche coloro che hanno ricevuto un diniego e che stanno facendo ricorso, dovrebbero essere espulsi dal sistema SPRAR. Ancora non si sa bene cosa succederà dopo il 31 dicembre, quindi non sappiamo se queste persone verranno, come dire, rimarranno in mezzo a una strada, anche perché comunque il destino o è questo oppure quello di finire nei centri di accoglienza straordinaria, quindi dei centri con grandi numeri che non saranno più gestiti dai comuni e che sicuramente provocheranno molti problemi all'interno delle nostre città. Gli altri due punti sono chiaramente quella, la richiesta di interrompere, di annullare gli accordi tra l'Italia e la Libia, che come sappiamo stanno provocando dei respingimenti nei centri di detenzione, quelli che l'UNHCR considera dei veri e propri campi di concentramento, dove i migranti subiscono violenze e torture, e quindi noi vogliamo che questi accordi vengano annullati. L'ultimo punto invece riguarda la richiesta che non ci siano più morti in mare. Sappiamo che proprio in queste ore c'è ancora una nave che si trova tra Malta e Lampedusa con 104 migranti a bordo, che attende di ricevere informazioni su un porto per poter arrivare a un porto sicuro. Noi chiediamo che tutto questo abbia fine. A proposito di morti in mare, il vostro appello è stato criticato dalla leghista Lucia Borgonzoni, che addirittura sostiene che con le leggi Salvini, i decreti Salvini, i morti in mare siano diminuiti. Noi chiediamo alla Lucia Borgonzoni di provare anche a leggere e interpretare bene i dati, che tra l'altro sono stati nei giorni scorsi riportati ad esempio nel dossier statistico immigrazione che è stato proprio presentato qui a Bologna e in tante altre città. Quindi di lasciare un attimo da parte la propaganda e provare a leggere i dati per quello che sono. È vero che nell'ultimo anno sono diminuiti i morti in mare e sono diminuiti anche gli sbarchi, però chi sta pagando il prezzo più alto sono proprio i migranti, che vengono fermati dalla Guardia Costiera Libica e riportati nei centri di detenzione oppure muoiono nel Mediterraneo centrale. Consideriamo che dal 2000 sono morti in mare 25.000 morti, poi questi sono quelli accertati, e in più, come appunto indica anche il dossier che è stato presentato pochi giorni fa, è vero che i morti in mare accertati sono diminuiti, ma il rapporto tra morti e partenze è passato da 1 a 50 a 1 a 35, e questo è dovuto anche a tutta l'operazione di criminalizzazione dell'ONG che è stata poi formalizzata dal decreto Salvini, che dal 2017 al 2018 hanno diminuito di molto la loro possibilità di salvare la gente in mare. Quindi i dati bisogna saperli leggere e saperli anche comunicare, insomma. Quando è nato l'attuale governo, il governo Conte bis, il tema della modifica dei decreti sicurezza era prioritario. Ora sembra che sia passato in secondo piano? Beh, sì, mi pare che questi temi non siano all'ordine del giorno. La sensazione è quella che si abbia quasi timore di affrontare queste questioni, perché potrebbero, come dire, aumentare il consenso nei confronti di Salvini, ma come abbiamo visto anche il risultato delle elezioni di ieri, io credo che la cosa più importante invece sarebbe che si facessero delle vere politiche di sinistra che provino a rispettare i diritti e la dignità dei migranti. Forse questo potrebbe anche aiutare finalmente chi sta in questo momento al governo.